Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Questa volta con noi al telefono c'è Maria Grazia Cangemi, benvenuta. Grazie mille, salve a tutti. Allora, Maria Grazia, alla fine della settimana scorsa sono venute fuori delle notizie che riguardano Equitalia e quindi di questo parliamo oggi, perché ci sono dei cambiamenti sulle regole della rottamazione, diciamo così, di chi magari aveva avuto delle cartelle esattoriali. Sì, esatto, ci sono delle novità sulla rottamazione delle cartelle introdotte con l'emendamento del decreto legge fiscale approvato dalla Camera. Sostanzialmente si farà rientrare tutti i debiti contratti fino all'anno 2016, al contrario invece di quanto stabilito prima, fino a dicembre 2015. Inoltre la novità che balza più all'occhio è che verrà introdotta una nuova tranche. Cosa vuol dire? Prima si poteva chiedere una reassessione dell'importo delle cartelle fino a un massimo di 4 rate, adesso invece viene inserita una quinta rata, quindi si ha più tempo per pagare. Ecco, e quindi anche una diluizione maggiore evidentemente. Mi sembra che quindi la cosa più interessante era che, come hai già detto prima, se uno aveva ricevuto una cartella esattoriale nel 2016, in quest'anno, non avrebbe potuto usufruire di questi vantaggi, cioè del fatto che oltre alla rateizzazione poteva evitare di pagare le more e tutte queste cose che vengono aggiunte. Quindi un bel cambiamento, una bella possibilità, insomma, che permetterà forse di riuscire a pagarle queste cartelle. Esatto, diciamo che lo scopo principale è quello di Equitalia, è quello di fare entrare più incassi possibili e quindi ovviamente tendono ad allettare più persone, quindi a renderla più fattibile. Certo, vogliamo ricordare che se uno arriva a una cartella di Equitalia, insomma, cosa deve fare? Si può rivolgere direttamente a Equitalia o conviene, insomma, prima cercare di capire anche con l'aiuto vostro di un'associazione dei consumatori quali sono le mosse giuste da fare? Sì, esatto, rivolgersi a degli esperti, perché la prima cosa che andiamo a verificare è se il credito effettivamente sia ancora dovuto e non sia caduto in prescrizione. Questa è la cosa fondamentale, perché ci sono comunque dei crediti che si prescrivono in 5 anni, altri in 10 anni, e tutto parte dalla data di notifica della cartella. Ah. Bene rivolgersi a chi lo fa per mestiere. E giustamente, anche perché magari uno paga qualcosa che potrebbe evitare di pagare. Esattamente. Va bene, ci sono altre piccole segnalazioni che vogliamo ricordare a chi ci ascolta? Momentaneamente è tutto un continuo divenire di notizie. Sembrerebbe che per chi abbia chiesto una rateazione delle cartelle può comunque aderire a questa rottamazione alle cartelle, dovrà comunque provvedere al pagamento del piano di rateazione fino a dicembre del 2016, dopodiché in attesa della rottamazione alle cartelle il pagamento della prima rata. Ho capito, quindi informiamoci bene se ci capita una cosa del genere e chiediamo lumi prima di andare a pagare qualsiasi cosa. Grazie per queste piccole segnalazioni. Io voglio ricordare il sito dell'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Nella sezione contatti trovate poi i telefono e gli orari dove l'Adico può in qualche modo venirvi incontro ed aiutarvi nella risoluzione dei vostri problemi. Grazie a Maria Grazia Cangemi, alla prossima settimana. Grazie a voi. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.